Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno, sono a Bari. Noi oggi trasmettiamo, ve l'avevo detto ieri, trasmettiamo dalla Fiera del Levante. Qui accanto a me, davanti, vedo una fontana. Noi siamo al padiglione 155 della Regione Puglia. Il sole è tornato a splendere, io ne approfitterò finita la trasmissione perché non voglio perdermi questo scampolo d'estate. Il clima invita, ma il calendario ci dice, purtroppo, che l'autunno è alle porte. Il 22 settembre alle 22.44 il sole attraverserà l'equatore celeste e si entrerà nell'equinozio di autunno. Allora, quindi, tutto sommato, possiamo iniziare a fare un conto alla rovescia. L'autunno è nell'aria, lo stiamo sentendo, o se preferite, l'estate alle ore contate. In linea con noi abbiamo il professor Massimiliano Pasqui, ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Professore, si cambia. Si cambia e ce ne stiamo accorgendo. La stagione autunnale, tra l'altro per noi meteorologi, inizia direttamente il 1° settembre. Facciamo una semplificazione rispetto alla stagione astronomica. E questo momento è un momento particolare perché ci introduce verso una nuova stagione con delle caratteristiche decisamente diverse, anche se negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato, professor Pasqui? Che cosa? Gli autunni, c'è una domanda che vorremmo fare agli ascoltatori, sono... Beh, potrebbe essere interessante sapere dai vostri ascoltatori se qual è la loro percezione del cambiamento climatico, come si dice in gergo tecnico, dell'impronta del cambiamento climatico nella nostra penisola, e capire se quali sono le idee riguardo a questa stagione, che di solito è caratterizzata comunque da precipitazioni e fa parte, insieme all'autunno, al periodo dell'anno in cui sul nostro paese cade la gran parte dell'acqua. Quindi una domanda potrebbe essere: qual è il cambiamento che percepite rispetto al cambiamento climatico che percepite rispetto alla stagione autunnale? Quindi autunni più caldi e piovosi o più secchi e freddi? Come sono cambiati gli autunni in questi ultimi 15 anni? Professor Pasqui, l'equinozio d'autunno è un giorno particolare, l'abbiamo studiato anche a scuola, è uno degli unici due giorni dell'anno in cui il giorno e la notte durano circa 12 ore, ma poi dovremo rassegnarci e le ore di luce si ridurranno progressivamente. Anche quest'anno ce la faremo, ci abitueremo, ma con un po' di disagio. Sì, perché in generale tutte le stagioni di transizione, dal punto di vista ambientale, in particolare meteorologico, rappresentano dei cambiamenti, inducono dei cambiamenti anche negli esseri viventi e naturalmente noi per primi. In particolare per noi c'è una particolare attenzione sia per quanto riguarda le ore di luce e quindi la riduzione dell'illuminazione diurna, naturalmente determina un adeguamento del corpo e delle sue funzionalità, che però si fa sempre più intenso, soprattutto con il procedere della stagione e soprattutto durante l'inverno. Il corpo però risente maggiormente in questo periodo degli sbalzi termici, perché sono quelli che hanno un impatto maggiore e ai quali il corpo tutto sommato fa più fatica ad abituarsi, per cui proprio in queste settimane, quando appunto le temperature, per quanto elevate o comunque in questo periodo al di sopra delle medie climatiche, comunque ci pongono delle giornate con degli sbalzi termici anche importanti tra le temperature notturne, quindi le minime, anche la mattina presto, e le ore più calde, quindi le massime, ecco, questi sbalzi di temperatura molto intensi devono essere in qualche maniera accompagnati in modo tale che il corpo riesca a seguire, a riprendere un passo autunnale. Allora, vi ripeto la nostra domanda, la domanda che il professor Pasqui fa agli ascoltatori di Essere e Benessere. Negli ultimi 15 anni l'autunno è più caldo e piovoso o più secco e freddo? 800 24 00 24, potete naturalmente chiamare per darci e motivare la vostra risposta. Il professor Pasqui tornerà a chiusura di trasmissione. Grazie professore, ci sentiamo tra poco. A più tardi. Buona giornata. Non è ancora autunno, Nell'aria non c'è ancora il giallo delle foglie cadute o la tristezza umida del tempo che più tardi si farà inverno, ma c'è una traccia di tristezza anticipata, un dolore indossato per il viaggio, nel sentimento in cui siamo vagamente attenti ai diffusi colori delle cose, al tono diverso del vento, alla quiete più grande che, quando scende la notte, si diffonde nella presenza inevitabile dell'universo. Fernando Pessoa, il libro dell'inquietudine. Dove siete? Noi siamo a Bari, alla Fiera del Levante, siamo al padiglione 155 della Regione Puglia, accanto a noi c'è una splendida fontana, venite a trovarmi. Voi vi sentite in estate o sentite che l'autunno vi soffia sul collo? Qua a Bari è ancora estate, ma l'Italia, lo sappiamo, è lunga, e poi l'autunno a volte si percepisce indipendentemente dal clima che ci sta attorno. 800 24 00 24, qui in studio con me ho il piacere di avere il dottor Francesco Mazzarella, dermatologo e responsabile dell'ISPLAD. L'ISPLAD, che noi conosciamo bene, è la Società Italiana di Dermatologia Plastica, responsabile della Regione Puglia. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. A volte, dottor Mazzarella, l'autunno non si sente, ma si vede. Almeno noi lo vediamo negli altri e lo vediamo quando ci guardiamo allo specchio. Certo. Beh, lo vediamo perché in realtà poi la pelle è l'unico organo che noi possiamo vedere sì. completamente, quindi ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti sappiamo i giorni. Sappiamo quando invecchia, okay. Esatto. Quando è irritata. Esatto, e in autunno, come diceva il professor Pasqui, ci sono queste variazioni climatiche che non sono il massimo della vita per questa poverina di pelle, no? Mm-hmm. Perché la pelle deve adattarsi comunque a queste variazioni di temperatura, di umidità, e quindi la possiamo, diciamo, percepire più secca, più disidratata, più opaca. Questo è il motivo per cui... E poi, oltre alla pelle, noi possiamo guardare, sempre in questa stagione di passaggio, dobbiamo guardarli, i capelli. Ahimè. I capelli e poi i cugini stretti dei capelli, che sono anche le unghie. Certo. Beh, sì, nel periodo autunnale i capelli risentono... un tantino in più di queste variazioni. In realtà i capelli cadono normalmente. Sì. Tutti i giorni noi perdiamo un numero variabile dai 10, 30, 40, 50 capelli. In autunno questa caduta aumenta. Infatti bisogna... si dicono castagne, capelli, cadono le castagne. Eh sì. Cadono... vero? Sì, e questo è il periodo. Questa caduta può essere anche primaverile, questo eccesso di caduta. Però non bisogna allarmarsi, perché... Intanto, non allarmatevi, chiamate 800 24 00 24, cercate di darvi un occhio, magari avete uno specchio, magari stamattina proprio avete trovato più capelli nel lavandino, oppure sul pettine, oppure sul cuscino. Certo. Alcuni dermatologi suggeriscono anche di contarli. E mi hanno detto anche il numero. Io non sono mai riuscita a contare i capelli, perché come si fa? Non è facile. Ecco, c'è un metodo un pochino più facile? Certo, si dovrebbero contare dopo un periodo di astinenza dal lavaggio di 5 giorni, però poi la valutazione del numero... Uno va nella vasca e mette uno, due, si dovrebbe tre. Lavare i capelli nel lavandino, insomma. È un po' farraginosa la sì. cosa. E quindi noi agli ascoltatori di Essere Benessere che vogliono intervenire per parlare della caduta dei capelli, ma noi non parleremo naturalmente solo di questo, parleremo di unghie, di tutto quello che nel passaggio tra una stagione e l'altra, per prepararci, sentiamo o avvertiamo a livello fisico e vedremo anche a livello psichico. Dottor Mazzarella, qual è il consiglio, la sfida, l'invito che lei lancia agli ascoltatori? Allora, intanto appunto non ci deve essere questo allarmismo. Sì. Se questa caduta è una caduta che insomma si è valutata già nei periodi, negli anni precedenti, con ogni probabilità passerà senza alcun problema. Mm-hmm. Se la caduta però dovesse preoccupare un po' più di tanto, è chiaramente bene rivolgersi da un dermatologo che possa valutare se i capelli che cadono sono capelli che hanno finito il loro ciclo di crescita, quindi certo. poi dovranno insomma cadere, oppure se sono capelli affetti da qualche patologia. Attenzione, localizziamo anche eventualmente la nostra fronte, perché quando noi pensiamo di perdere i capelli proviamo, no? Cerchiamo la stempiatura, che ha delle differenze rispetto all'uomo e alla donna, naturalmente. Certo, ma in realtà poi questo è quello che si verifica nella patologia del capello più frequente in assoluto, che è l'alopecia androgenetica, che è una forma di caduta dei capelli intanto geneticamente determinata, quindi poi quello che si può fare è ben poco, sì, soprattutto nelle fasi avanzate di questo problema. E poi in questo tipo di problema ci sono delle zone da cui i capelli vengono via più facilmente rispetto, sì, ad altre, che sono fondamentalmente le zone delle tempie e la zona del vertice. Nella donna, nella la zona centrale del dove capellizio. Noi, ecco, certo. Dove noi donne facciamo solitamente la riga. Praticamente. Vero? Sì. In centro. Quindi sì, attenzione, se vi accorgete che la riga dei capelli è leggermente più larga, ecco, forse è il caso di farsi vedere da un dermatologo, certo, fare due chiacchiere senza naturalmente allarmarsi. Potete, certo, intanto chiamare l'800 24 00 24. Noi, come vi ho detto, siamo a Bari alla Fiera del Levante, allora ho pensato di parlare di autunno, di cambio di stagione. Vogliamo giocare proprio questo periodo per prepararci ai mesi che ci aspettano, e vorrei commentarle insieme a un medico che è un grande esperto di una medicina che viene dal Levante, dall'Oriente, la medicina tradizionale cinese. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Emilio Minelli, che è medico, che è esperto di medicina tradizionale cinese, agopuntore, e anche lavora al centro collaborante dell'OMS per la medicina tradizionale dell'Università di Milano. Buongiorno, dottor Minelli. Buongiorno, buongiorno a lei. Guardi, io sono molto contenta. Perché? Perché proprio in questo periodo in cui naturalmente si parla di cambio di stagione, lei è uscito con un libro che è molto bello, io me lo sono letto tutto e ho imparato tantissime cose, che si intitola Curarsi secondo stagione. Quasi a dire che la medicina cinese, ancora prima della bioclimatologia, aveva intuito e aveva deciso di studiare gli effetti della salute che il cambio di stagione, il clima, hanno sulla salute psicofisica dell'individuo. Beh sì, è proprio così, cioè, tra l'altro mi fa piacere trovarla a Bari, che è uno dei crocevia fondamentali di quella via della seta che hanno unito Ippocrate, la Grecia, la Cina, quindi, l'India. Che eleganza, vero? Creandone che medico di medicina tradizionale cinese. Diciamo, un coagulo di civiltà inestricabile, quindi. E sicuramente per la Cina, per i cinesi, per l'antica medicina tradizionale cinese, l'uomo è sostanzialmente un essere in costante evoluzione, sottoposto a un costante cambiamento che è quello determinato dalle stagioni. Quindi che se ne renda conto, che non se ne renda conto, deve tener conto che sia i suoi disturbi potranno essere aggravati o peggiorati da alcuni cambi di stagione, sia la cura, diciamo, a cui vorrà sottoporsi non potrà non tenere conto, diciamo, di questi cambiamenti. Pelle e capelli, come diceva il dottor Mazzarella e come tutti noi sappiamo, sono un po' in crisi in questa coda dell'estate che così ci porta all'autunno, ma chi se la passa bene invece in questo periodo, dottor Minelli? Ma in questo periodo se la passano bene soprattutto le persone che tendono ad avere delle esplosioni, diciamo, noi diciamo dello yang, di energia verso l'esterno, e che in realtà non se lo possono permettere. Per esempio le persone che hanno appena avuto l'esplosione dell'energia estiva e che avevano problematiche di ipertensione si troveranno meglio in una fase di passaggio stagionale, che porterà l'energia a rientrare verso l'interno, a una maggior quiete, a una maggior tranquillità, senza arrivare per questo, diciamo, a veri e propri stati di tristezza. Comunque è proprio vero che l'autunno è una stagione, diciamo, in cui le energie tendono a diminuire, le foglie tendono a cadere, e guarda caso in maniera molto analogica anche i capelli tendono a cadere. È il momento in cui vengono meno le energie e se non si è preparati, perché questo poi è, come dire, un po' il messaggio di questa concezione di vedere le cose, cioè siccome sai che arriverà il momento critico, preparati prima, fai prevenzione. Se sai che sei già piuttosto debole, sei piuttosto scarico come energie, cerca di fare in modo di procurartene e di procurartela attraverso un'alimentazione più attenta, attraverso la stimolazione di punti che ti puoi massaggiare anche per conto tuo, attraverso l'uso di qualche piccolo integratore, insomma, cioè, certo. Cura la vita e mantienila, insomma, questo è il messaggio ottimistico. Parleremo dell'imperatore giallo. Ernesto, che mi ha scritto un messaggio, non devo interromperla ma devo farlo. Ernesto mi scriveva di lasciare parlare gli ospiti, li lascio parlare ma vorrei dare la parola al dottor Mazzarella, perché io vorrei che lei rispondesse agli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 per dirci: ma si può in qualche modo, non dico prevenire, ma arrestare questa caduta fisiologica? Beh, allora, la caduta è appunto fisiologica. I capelli che cadono perché hanno, diciamo, finito il loro ciclo di crescita non devono preoccupare assolutamente. C'è un ricambio, no? Quindi se c'è un capello che cade, non un è un problema. Esatto. Dai. Il problema insorge quando non è sostituito. Sì. Il capello che cade non è sostituito da un nuovo capello. Ma lì siamo poi di fronte ad un problema appunto di patologia. Andiamo a Gina, che ci chiama da Milano all'800240024. Benvenuta, buongiorno. Sì, buongiorno signora Nicoletta. Volevo chiedere al dermatologo se sì. Ci sono degli integratori da prendere per appunto la caduta stagionale. Io ho 66 anni, ne perdo parecchi anche durante l'anno. Però sono stata da una dermatologa, ma mi ha detto che era una cosa normale, fisiologica. Certo. So che adesso nei cambi di stagione, primavera e autunno, ne perdo molti di più. E volevo fare una cura preventiva. Buongiorno Gina. Allora, sì, io ho un'idea sull'integrazione alimentare, nel senso che se un'alimentazione di per sé è già completa di vitamine, sali minerali e acqua, l'integrazione alimentare non è indispensabile. Tuttavia esistono degli integratori formulati appositamente per la caduta dei capelli che contengono solitamente una quantità, diciamo, maggiore appunto di sali minerali. Di quali sono i sali minerali, così le vitamine che fanno bene al capelli, alle unghie? Così uno le può cercare nell'integratore, ma anche prediligendo alcuni alimenti di che ne sono ricchi. Beh, le vitamine sono intanto le vitamine antiossidanti, la vitamina C per esempio, la vitamina PP, che sono introdotte comunque, no, con la dieta, con una dieta sana, una dieta sì. equilibrata. E poi c'è questi integratori comunque contengono per esempio anche la cistina. La cistina è il mattone con cui viene prodotta poi la cheratina, che è la struttura poi del pelo e delle unghie, certo. Dottor Minelli, è ancora in linea? Sono sì. qua. Per la medicina cinese ogni stagione, l'abbiamo anticipato, è legata ad un organo e l'organo dell'autunno è il polmone, che ha funzioni solo in parte uguali alla nostra medicina, ma che ci farebbe piacere conoscere per capire come, no, aiutare anche il nostro organismo, aiutando magari questo organo che secondo la medicina cinese è un po' il primo ministro di questa parte dell'anno. Sì, dunque il polmone è il ministro addirittura dell'energia, quindi è in qualche modo un organo molto importante e al di fuori della metafora ci si rende conto che senza ossigeno i nostri mitocondri, questa è la metafora della medicina occidentale, non possono produrre energia. È anche un organo molto importante nel senso che il terzo polmone, si dice in medicina cinese, dell'organismo è costituito dalla pelle con cui il polmone è strettamente correlato, quindi anche i capelli che non sono in salute, i capelli che si spezzano, che sono opachi, che sono diciamo un'espressione di una scarsa energia che è presente, che viene prodotta dal polmone. Ora, infatti, professor, dottor Minelli, quando noi siamo un po' scarichi, quando stiamo attraversando un periodo in cui ci sentiamo proprio senza energia, la prima cosa che notiamo è proprio il capello che non è più bello e le unghie che diventano fragili. Quindi c'è questa energia, no? Questa parola che ci condurrà un po' come così, parola chiave della nostra trasmissione. E quindi, dottor Minelli? E quindi, come diceva il collega prima, per situazioni normali basta la normale alimentazione, basta un'alimentazione completa, vi dicendo, ma ci sono nella vita situazioni particolari, cioè se uno è già partito con preoccupazioni per il lavoro in primavera, è stato licenziato durante l'estate e si ritrova scarico, certo, diciamo in autunno e senza prospettive magari di avere un nuovo lavoro, è una situazione che richiede molto qualche tragica, qualche certo, energia in più, insomma qualche un allora sprint in più. Noi dobbiamo fermarci, dare la linea ai mercati, lo facciamo molto volentieri. Intanto vi invito a rispondere al nostro quizzettone di oggi, che è molto molto semplice, all'800 24 00 24: come sono gli autunni, sono più caldi e piovosi oppure più secchi e freddi? Ma soprattutto mettetevi in contatto con noi per raccontarci: vi sentite ancora in estate o siete già in autunno e quali sono i segnali che volete raccontarci? Essere e benessere. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore escadron, Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re, non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto. Ed eccoci qua, siamo tornati, parliamo di capelli. In autunno, e siamo quasi in autunno, è un po' l'argomento di discussione più comune tra amici: ne perdi, come, cosa ne fai, li lavi, non li lavi, ma è solamente un po' un segnale che qualcosa sta cambiando, che l'estate si sta chiudendo e ci stiamo preparando ad una stagione in cui saremo naturalmente meno esposti alla luce. Un cambio di stagione, un cambio di energia, e noi siamo partiti proprio dai capelli, da questo problema che metto tra virgolette, perché la caduta dei capelli in autunno è assolutamente fisiologica, come ci diceva il dottor Mazzarella, per cercare di capire come affrontare questo cambio di stagione anche da una lettura della medicina tradizionale cinese. Infatti in linea con noi abbiamo il dottor Minelli. Autunno, polmone, il polmone è energia e quindi noi dobbiamo in qualche modo nutrire questa energia. Dottor Minelli. Dobbiamo nutrire questa energia, dobbiamo farla circolare al meglio e soprattutto dobbiamo prevenire delle cadute che possono sempre essere possibili, che possono diventare evidenti, diciamo, nella stagione in cui viene richiesta più energia, perché è la stagione comunque in cui affrontare un adattamento alle temperature più basse, a una diminuzione della luce, via dicendo. Ci sono da sempre dei farmaci considerati gli imperatori, sono farmaci che servono per il benessere della popolazione, diciamo, questo è il motivo di questo nome così particolare che viene loro attribuito, e ce n'è uno in particolare che si utilizza, diciamo, per aiutare il passaggio, per così dire, autunnale, che è l'astragalo. L'astragalo è una pianta estremamente, in qualche modo, sicura, voglio dire, tecnicamente non si è mai trovata la dose letale 50, cioè cosa vuol dire? Non si è mai trovato la possibilità di fornirne un quantitativo sufficientemente elevato, diciamo, a dei topini per scoprire che poteva essere tossico. Ha un'azione tonica, un'azione ricostituente, lavora a livello dei mitocondri, di cui favorisce, diciamo, proprio la fisiologia, e i mitocondri sono praticamente le zone dell'organismo dove si produce energia. E oltretutto, vi sentite su, dottor Minelli? Ripeto la domanda ai nostri ascoltatori: come vi sentite in questo cambio di stagioni? Siete su o siete giù? Dottore? e oltretutto hanno anche un'azione particolare, nel senso che ha un effetto collaterale, cioè ha un'azione immunostimolante, quindi in qualche modo aiuta a diventare più immunocompetenti nei confronti dei germi che in questo momento già stanno cominciando a disturbarci con le prime influenze, i primi raffreddamenti e via dicendo. Andiamo a Bologna, ci chiama Luciana e poi Giovanna da Lecce. Luciana, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, complimenti. Sì, grazie. Te le volevo rispondere in merito a come si percepisce l'autunno. Sì. Cioè io lo percepisco benissimo perché ci sono queste giornate tiepide e le notti più lunghe, quindi si dorme bene, di giorno si può viaggiare, siccome io viaggio vado in giro, la preferisco l'estate questo periodo. E poi per i colori, ad esempio alcuni anni fa ero in Canada proprio i primi di ottobre, uno scenario meraviglioso. Magnifico. Quindi direi che mi piace molto, lo trovo un periodo validissimo, volevo dire una banalità, faccio solo fatica ad asciugare la biancheria. È vero, non asciuga mai. A maggio e giugno. Quindi, è vero, rimane un po' umida. Sì, infatti, ecco, ho detto alcune banalità. No, grazie Luciana di essere intervenuta. Buon autunno allora, mi sembra che sia un autunno, una stagione che lei gradisce in modo particolare. Giovanna da Lecce, buongiorno, benvenuta. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Intanto sono emozionatissima nel rispondere, nel parlare alla radio, vabbè, questo è un dettaglio. Niente, volevo dire che sono in parte d'accordo con quello con quella signora che mi ha preceduto, nel senso sì. Che io la stagione che preferisco in assoluto è l'autunno e anche la primavera. Perché l'aria fresca mi fa star bene, tranne che oggi ho un forte mal di testa, quello a prescindere dalla stagione. Sì. Mentre l'estate io sto proprio male, sono proprio il caldo a pelle, appena mi sveglio se riesco a dormire, insomma. Insomma, male. Stiamo raccogliendo, dottor Mazzarella, delle testimonianze come quella di Giovanna e dell'amica di Bologna che dicono in autunno sto meglio. Forse l'unico che non sta tanto bene in autunno è il dottor Mazzarella, perché dal dermatologo si va spesso e più frequentemente in autunno. Beh, certo, abbiamo la caduta fisiologica, abbiamo la pelle che si squama, abbiamo le macchie e poi ritorna il funghetto della testa, la malassezia. Certo, in autunno c'è la recrudescenza di tutte le patologie, diciamo correlate un po' all'aumento degli androgeni, cioè degli ormoni sessuali maschili, per cui la forfora, per esempio, quindi la dermatite seborroica, in autunno è al top. Dicevo prima anche l'alopecia androgenetica, l'acne, sono tutte patologie che in autunno chiaramente ripartono. Sì, ripartono assolutamente. Ripartono anche diciamo un po' tutto quello che è legato alla secchezza cutanea e quindi pruriti di vario genere, perché chiaramente la pelle secca, il primo sintomo che dà è il prurito. Quindi sì, è chiaro che in autunno. Qualche indicazione per i nostri ascoltatori che si trovano notano sulla pelle questo disagio di questo organo meraviglioso a cedere il passo all'autunno? Beh, intanto io consiglio sempre lo step fondamentale per mantenere una pelle sana è la detersione e l'idratazione. La detersione, che io, diciamo, a meno che non ci siano controindicazioni particolari, io la consiglio sempre con oli, perché l'olio è in realtà un detergente che funziona senza aggredire la pelle, quindi non la secca, crea un film sulla superficie cutanea che riduce la perdita di acqua attraverso la pelle, quindi indirettamente idrata. Sì, lei parla di pelle ma anche di cuoio capelluto, è meglio lavarlo con degli shampoo oleosi? Assolutamente non aggressivi, perché la pelle, come tutti gli organi, biologicamente gli organi si devono anche un po' adattare, per cui immaginiamo che se noi riduciamo drasticamente la quantità di sebo, cioè di grasso, in caso di appunto dermatite seborroica, la pelle ne produrrà di più, perché il grasso è una delle due fasi che proteggono appunto la superficie cutanea, quindi non bisogna sgrassare troppo per non ottenere un effetto assolutamente differente. Ci sono per la dermatite seborroica una serie di preparati che tengono sotto controllo questo fastidio. Dottor Minelli, lei ha anticipato in apertura di trasmissione che un aiuto, un contributo per affrontare questo passaggio di stagione lo dà l'alimentazione. La medicina tradizionale cinese ha proprio una sua dietologia, no? Molto ricca di consigli, è una tradizione millenaria e in ogni stagione suggerisce di consumare alcuni cibi con particolari sapori. Il sapore dell'autunno per la medicina cinese che sapore è? Il sapore dell'autunno è il sapore piccante, il sapore piccante moderato, diciamo niente di estremamente importante e tossico. Però diciamo che l'autunno è la stagione in cui bisognerebbe consumare un po' più alimenti piccanti che servono sia a favorire una certa sudorazione a livello della pelle, quindi in qualche modo una certa pulizia. Resta il leitmotiv del distacco, cioè anche la pelle è bene che lasci andare le impurità, le lasci scivolare via, e nello stesso tempo spesso molte sostanze che sono di sapore piccante hanno un'efficacia, diciamo, nel favorire la respirazione, hanno azioni disinfettanti. Pensiamo per esempio che il prototipo di alimenti piccanti che si dovrebbero consumare in autunno sono le agliacee, quindi cipolla, cipollotti, aglio, scalogno, porro. Ecco, senza dimenticare ovviamente piccoli quantitativi di zenzero oppure di peperoncino, insomma, che in qualche modo aiutano la digestione e aiutano anche però alla respirazione, perché molte di queste sostanze contengono, diciamo, dei principi attivi che hanno un'azione broncodilatante. Andiamo a Cristina da Venezia prima di dare la linea alle informazioni sul traffico. Cristina, la domanda, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Niente, io ho la figlia che ha 30 anni circa, che ha sempre avuto un'attaccatura nella fronte abbastanza alta, però negli ultimi 2 anni sta aumentando più del normale, cioè l'attaccatura si sta spostando e non c'è più nessuna crescita, non c'è più nessuna, neanche un po' di peluria, niente, quindi c'è proprio il bulbo che si stacca e poi non ricresce. Abbiamo sentito di dermatologi, però non ci hanno dato nessuna, dicono che è una fronte così, che non ci sono alternative. Volevo sentire se per caso ci fosse qualche soluzione diversa. Essere e benessere. Dottor Mazzarella, Cristina chiede un aiuto per sua figlia, i dermatologi sinora non hanno fatto diagnosi, invece noi sottolineiamo l'importanza, e questo è un messaggio che vogliamo dare anche ai nostri ascoltatori, il medico deve fare una diagnosi. Certo, Cristina, buongiorno. Dunque, l'arretramento della linea frontale, se diciamo lo ha percepito in maniera molto importante, con ogni probabilità è sotteso da un problema, e questo problema deve essere risolto e deve essere intanto diagnosticato e poi risolto. Esistono una serie di esami, esistono anche una serie di patologie di ordine internistico, tipo malattie della tiroide o carenze di ferro, che possono spiegare una caduta dei capelli. Lo studio, per esempio, microscopico del bulbo ci dà tante indicazioni circa appunto l'eventuale patologia del bulbo stesso, per cui la mia idea è intanto sì, continuare insomma a sentire uno specialista, perché dovrebbe comunque valutare, oltre che la forma del bulbo e del fusto del pelo, dovrebbe valutare chiaramente anche una serie di parametri funzionali che non riguardano esclusivamente il discorso esclusivamente la pelle. Insomma, io ho tutte le mie cose negli scatoloni e tu fatichi a entrare dalla porta. Lo so, l'hai visto? Ogni volta, ogni singola volta. Dobbiamo spostare questa roba. Svuotiamo lo stanzino e mettiamola di là. Sta attento! Non urlare, non serve, non sono sordo. Sta bene a sentire. Ora porti tutto di là. Ho steso degli asciugamani puliti sul pavimento e ci posi le mie scarpe e le mie scatole con delicatezza. Adesso non ci resta che buttare un po' di vestiti. Allora vuoi proprio morire. Ma la maggior parte non l'hai mai indossati. È così. Non li ho ancora indossati, è vero, ma un giorno lo farò. sono quelle più efficaci, sono quelle che riescono a mimare un po' quella che è la struttura del cemento tra le cellule, e mm-hmm. quindi quelle che sono creme che sono formulate proprio per ridurre o per potenziare gli effetti difensivi di questo film idrolipidico. Abbiamo ancora in linea il dottor Minelli? Sono qua. Cominciamo? Dottor Minelli, niente, perché l'avevamo persa un attimo, ma io siamo quasi in chiusura di trasmissione. Abbiamo parlato di polmone, di energia, di alimentazione, di cui lei parla nel suo libro e che descrive come una sorta di massaggio, la digitopressione, per riattivare questa energia. Sì? Sì? Possiamo... Sì, ho perso io voi un attimo. No, comunque credo di aver inteso, cioè quello che comunque nel libro viene sottolineato è l'importanza di coltivarsi, cioè io ascoltavo con piacere le parole del collega dermatologo che ampliava nella valutazione, diciamo, di un disturbo a una valutazione più generale, più globale, non solo locale. Ecco, il messaggio è un po' questo, cioè siccome siamo inglobati in un mondo cronobiologico in cui i tempi, le stagioni, il passaggio del caldo e del freddo del giorno e della notte modificano molto le nostre risposte, l'importante è coltivare questa nostra energia che ci consente di adattarsi, perché la stagione, diciamo, attraverso l'adattamento può diventare un'opportunità per il proprio organismo, ma anche per la propria mente. Pensiamo per esempio all'importanza che ha acquisire, diciamo, delle sane regole di distacco attraverso il modello che per esempio l'autunno ci pone innanzi. Ma per far questo sicuramente bisogna coltivare l'alimentazione, bisogna coltivare l'energia attraverso massaggi di punti specifici, bisogna usare anche qualche integratore, bisogna fare anche qualche tipo di ginnastica che aiuti, diciamo, questa energia a muoversi e a renderci praticamente sempre sulla cresta dell'onda, in maniera da poter essere, diciamo, in qualche modo sempre nel meglio della nostra forma fisica e mentale per rispondere alle sollecitazioni che l'ambiente ci rivolge in continuazione. Essere e benessere,